Europa 24. Un buongiorno da Gigi Donelli, partiamo oggi dalla Grecia. Grecia che ha presentato ai creditori una nuova proposta di 3 pagine sugli obiettivi di bilancio, così riferiscono fonti europee, secondo cui nel documento si torna a chiedere anche di convertire i bond greci acquistati dalla BCE con il programma SMP in bond con scadenze più lunghe da trasferire al Fondo Europeo di Stabilità, l'ESM. Stamattina abbiamo ricevuto nuovi suggerimenti, nuove proposte delle autorità greche, che le stiamo analizzando, ha detto il portavoce della Commissione, non specificando i contenuti. Si va avanti dunque. Intanto nuovi dati dell'economia. Eurostat ha confermato la crescita del PIL dello 0,4% nell'Eurozona nel primo trimestre rispetto al quarto trimestre 2014. Stesso andamento nella UE. Rispetto a un anno prima il PIL è aumentato dell'1% nell'Eurozona e dell'1,5% nell'UE. Rispetto alla stima flash, l'unico cambiamento riguarda l'UE, con un PIL che veniva calcolato in aumento dell'1,4%. Il Consiglio d'Europa in un rapporto ha espresso preoccupazione per la violenza razzista nei confronti di rom, migranti, richiedenti asilo e rifugiati in Ungheria, anche se ha giudicato positive alcune iniziative del governo, a partire dalla creazione di un'unità della polizia contro i reati di odio e di 20 punti di consulenza antirazzismo. Il documento pubblicato oggi a cura della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza appunto in Europa sottolinea come il 22% dei richiedenti asilo siano privati della loro libertà personale e chiede che siano create strutture aperte per l'accoglienza. E infine, domani a Strasburgo il Parlamento europeo voterà la risoluzione sul TTIP con l'obiettivo di dare una sorta di mandato alla Commissione europea, ma come sapete restano ancora su questo progetto di accordo tra le due sponde dell'Atlantico molte divergenze. Il punto. La discussione inizierà di prima mattina, poi verso mezzogiorno il voto. Il Parlamento europeo dovrà fissare i paletti concreti per andare avanti nei negoziati sul TTIP, il trattato di libero scambio tra Europa e Stati Uniti, e il dibattito si preannuncia molto acceso. Ci sono molte differenze, innanzitutto territoriali, il nord e il sud dell'Europa non la vedono alla stessa maniera. Ci sono preoccupazioni dal punto di vista delle regole sulla qualità, sugli standard, perché alcuni considerano questo accordo, diciamo, un potenziale rischio di riduzione degli standard di qualità europei. Così ci spiega Paolo De Castro, relatore per la Commissione Agricoltura. Fabio Massimo Castaldo dei 5 Stelle avverte: faremo opposizione ferrea, il Parlamento è diviso. C'è chi ad esempio come noi sottolinea i pericoli enormi connessi alla presenza di un meccanismo quale l'ISDS per la risoluzione delle controversie tra privati e investitori e stati, l'attentato possibile al principio di precauzione, tematiche quali la presenza degli OGM all'interno del nostro mercato o altre problematiche inerenti alla sicurezza alimentare e la protezione anche delle denominazioni di origine. Noi voteremo per inserire tramite emendamenti all'interno di questa risoluzione queste red line molto chiare da parte nostra. Se non dovessero passare, sicuramente voteremo no. Voterà sì invece Massimiliano Salini, di nuovo centrodestra, Partito Popolare Europeo. Io, da che mondo è mondo, vengo dal mondo dell'impresa, non ho mai visto che per rilanciare un'economia bisogna deprimerla e bisogna proteggerla nel senso di rinchiuderla, bisogna difenderla rilanciandola. Il TTIP nasce da questo presupposto. Insomma, sostiene Salini, i rischi ci sono, ma la priorità è aumentare lavoro e occupazione. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora linea allo sport. Europa 24 torna domani alle 14. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.